Lupo Nair, Summersburgo. Americano. Bentrovati al sesto episodio della seconda stagione di Lupo Nair Summerspurgo, la versione estiva di Lupo Nair, nata come il braccio armato di Lupinaria con le voci di Vanni, che sono io, e di Flamì, che è quello che va salutato all'inizio, e lo riscolterete dal vivo a settembre quando ritorneranno le trasmissioni regolari di Lupo Nair. Abbiamo appena ascoltato Mind Enterprises, che è un progetto di Italo Disco fatta in casa da Andrea Tirone e un suo socio coi Baffi, che vivono a Las Palmas delle Canarie, e io anche sono delle Canarie, e anche se è originario di Torino. Andrea Tirone, dal classe 1985, si diverte a fare musica oggi con gli elementi del 1985, sia a livello strumenti che stilistici, anche se ultimamente negli ultimi singoli si sta un po' allontanando verso una direzione di Eurodance più anni 90 che anni 80, diciamo. Questo brano che abbiamo ascoltato si intitolava Americano ed è contenuto nella compilation Toy Tonics volume 3, quindi è una raccolta di brani di Italian Dance moderna. E invece industrial metal, manco troppo moderno, è quello che propongono i Black Magnet. Black Magnet arrivano da Oklahoma City, Oklahoma naturalmente, Stati Uniti, che fanno industrial metal tipo quelle cose pesanti, Godflesh, Nanny Slates con la rabbia. Hanno pubblicato da pochissimo un album nuovo intitolato Mega Mantra, caldo caldo è questo brano intitolato Night Tripping. Loro sono Black Magnet. Nair Summerspurgo. Care about you. sea. Those red flags flying on the surfing sea could guide us from our dusty knees. Personal responsibility don't apply to very large companies who are obligingly negligent while super wealthy of personhood and of accountability. È una band di, che dire, rock psichedelico, post-punk, kraut. Loro si dichiarano forest folk e vengono da Londra. Hanno fatto diversi album, tutti molto belli, devo dire, almeno per i miei gusti di merda. Dall'ultimo album, Hard Times, Furious Dancing, abbiamo ascoltato il brano Personal Responsibilities. E ora invece la discoteca pesante, la discoteca perché a noi ci piace solo pesante, con i Tiskeludda, che vuol dire in danese puttana di tedeschi, ho saputo questa cosa qua, che è un gruppo tedesco che si tiene a responsabilizzare i propri concittadini in questi tempi bui, e lo fanno anche con quest'ultimo album fresco fresco intitolato Weltenbühne, che è ispirato con una serie di brani ispirati allo scrittore satirico Kurt Tucholsky, è morto nel 1935, quindi non l'ho mai incontrato, sono troppo giovane. Invece i Tiskeludda sono molto vecchi, l'hanno evidentemente studiato bene, e da questo album ascoltiamo il brano Rosen auf den Weg gestreut. Eure Munde, der erklärt, ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Seelen hetzen, sagt ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie so Luft im Hirn. Denn Prügel ist doch ihr Geschäft, bis die Faschisten, wo ihr sie trefft. Schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifisten-Fiddel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Und schießen sie, du lieber Himmel. Schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifisten-Fiddel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Merspurgo. We'll be right back. gradito ritorno, questo dei Red Lorry Yellow Lorry, è una storica band post-punk di Leeds, Regno Unito, che dal 1981 si dà da fare nel mondo della musica alternativa, diciamo. E sono ritornati di botto dopo molto silenzio con un album nuovo intitolato Strange Kind of Paradise. Da quest'album abbiamo ascoltato il brano The Only Language. E ora, The Only Language che parliamo bene noi, è l'umarchigiano, anzi, è umarchigiano, perché siamo a Recanati. Recanati per ascoltare un brano dall'album di debutto, credo, l'album solista di Matteo Moretti. Matteo Moretti è un bassista da milioni di anni, insegna addirittura questo strumento, si è sempre barcamenato tra jazz, fusion e di recente anche musica contemporanea. Ha uno studio di registrazione chiamato l'Astronave Studios, dove ci passa un botto di gente, sia a registrare che a fare a farsi intervistare, cioè una sorta di come dire, programma su YouTube, vabbè, insomma, si dà da fare, si dà da fare. Sto giovanotto che ha appena pubblicato un album, appunto, intitolato Appannaggi, che immagino sia il noto artista che dava il nome alla scuola dove sono nato io. Ma adesso ascoltiamo invece un brano di questo album intitolato Dinamismo assoluto della mano sinistra di Ghi, di Matteo Moretti. Thank you. Luponer, Summerspurgo. With a smile, she threw the tarot cards away. She said, better start living for today. Questo heavy metal imbruttito che abbiamo ascoltato è quello di Astral Spectre dalla Germania, Nagold per l'esattezza. È una one man band, diciamo, sì, uno che suona tutto, che risponde al nome di Tenebros. Tenebros, vieni qua. Ha fatto da poco un altro album, il secondo, Ars Notoria. Il brano che abbiamo ascoltato da Ars Notoria di Astral Spectre era Gypsy Witch. Ora che facciamo? Ascoltiamo Giorgi Manopola. Giorgi Manopola è uno col ciuffo Elvis molto grosso, che fa roba strana, insomma, una sorta di Led Zeppelin applicati al liscio, almeno lo è, e questo è quello che succede in questo singolo di uscito ben 6 giorni fa, e noi lo ascoltiamo solo ora, pensa tu, Romagna Mia nella versione di Giorgi Manopola, questo sconosciuto. Yeah. Spurgo. le dolci note di Rhombus. Rhombus sono una band gothic rock inglese dal qualche posto sperduto nel West Yorkshire. Sono attivi da tanto ma non tantissimo, cioè diciamo anni 2000. Questo è l'ultimo singolo uscito, Love You Till Closing Time, nella lock-in version. Cosa vorrà dire? L'avranno scalata dentro casa? Può darsi. Ma ora induriamo i suoni per ascoltare Terror Pie o Terror Pie, chissà come si pronuncia. Sono danesi, che ne so. Comunque fanno death metal, hanno fatto due album belli gnocchi. L'ultimo si chiama Bisection Collection e ci ascoltiamo questo brano intitolato Honey Bog Therapy. Ah, è therapy, perché suona come therapy, però c'è terror, therapy, forte. We'll be right back. Lupo Nero. Summer Spurgo. Non Exister è il nome di questa band da Zurigo, Svizzera. Che dire, che fanno? Industrial rock? Industrial metal? Gnignignè? Può darsi. Hanno fatto un album, forse credo che sia l'unico, il debutto, perché sono usciti solo dei singoli, intitolato Demons, e da questo Demons dei Non Exister abbiamo ascoltato il brano Storm, e con questo brano abbiamo concluso praticamente questa sesta puntata della seconda stagione di Lupo Nero Summer Spurgo. Ci sentiamo giovedì prossimo. E vi lasciamo con Cretan Nights, che è un brano dei Torn Relics. Torn Relics, che roba è? Che vi dico? Ambient techno, dark ambient, dubstep, industrial. Vengono da Londra, sono antipatici abbastanza. e questo brano è tratto da una compilation chiamata Regarde le Monde Brûlé, volume 1. Tom Relix, Crater Nights, Summersburgo di Lupo Nair, a giovedì prossimo! Of essential beliefs. Summersburgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.